No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Eccoci. Buonasera. Bonsoir. Ciao a tutte, tutti e tutto. Siamo le ribelli in onda precisissime, 18:32, attenzione. C'è il sole. E tutto va bene. Un'afa incredibile. Con queste note di ni una menos incominciamo la nostra ultima puntata, ragazze. Che abbiamo intitolato come, cioè, arrivederci amore, ciao. Meno male che ci sei. Salute ribelli per l'estate. Un attimo di panico. Quindi sarà una puntata dedicata ai saluti, un po' così, ce la chiacchieriamo, ce la viviamo intensamente. Ognuna diligentemente però ha preparato il suo intervento, okay. Vero ragazze? Incredibile. Siamo tutte pronte. Prontissime. Proprio. Uh-huh. Abbiamo anche la Mercu alla regia oggi. Super professionale, come professional. Sempre. E vogliamo ricordare i nostri canali? Ma certo. Prego Mercu, a te l'onore. Eccola, pronta per i tecnicismi, ci sono. Allora, ma no, mi sento già abbastanza... Allora, per entrare in contatto con noi potete usufruire del chat di Telegram chiocciola Radio Zam trattino basso chat e così ci potete scrivere durante la diretta per parlare direttamente, sempre diretta ovviamente, con noi. Un altro modo per scriverci è la pagina di Facebook Radio ZAM dove potete trovare tutte le informazioni, ma ovviamente si possono inviare anche i messaggi, quindi vi aspettiamo numerose e numerosi. Poi c'è il canale Telegram Radio ZAM dove invece non si può interagire, ma vi mandiamo tutte le informazioni inerenti alla radio, le trasmissioni o magari degli approfondimenti. E poi c'è l'account Instagram della radio, Radio Zammisud, e anche lì trovate tutti quanti gli appuntamenti della nostra radio, ma poi c'è il bellissimo canale specifico, vai Andrea, che è le trattino basso ribelli trattino basso zam, dove potete scriverci e seguire le nostre stories e vedere i nostri post. Cosa facciamo ragazze, mandiamo una canzone e poi incominciamo? Direi di sì. Ok, allora mettiamo questa fantastica canzone che in realtà è una sigla di un programma televisivo. Non facciamo radio, ma non ci interessa, noi siamo sicuramente all'altezza anche di questo altro programma che 25 anni fa terminava la trasmissione, quindi Merco, prego. Oserei dire anche purtroppo, tutti quelli degli anni 80, i maschi hanno pianto, noi vabbè ce ne siamo fatte una ragione, però sarà un bel revival. Noi continuiamo a sognare i capelli di Ambra comunque. Tace anzi parla, diario di una femminista, 1978, Carla Lonzi. E la clitoride faceva parte delle mie sporgenze, oppure, restando fisiologicamente staccata dagli organi del congiungimento, pene e vagina, funziona come un capitolo a sé stante dell'inconscio, oppure rappresenta la base fisiologica del piacere, un micropene invisibile e mai nominato, perciò più irreale dell'appendice, che però permette alla bambina di considerare come pene altre sue sporgenze e di sentirsi, contro ogni evidenza, provvista di pene. Perciò castrabile, alla resa dei conti, castrata. La bambina è costretta a dimenticare le sensazioni di avere qualcos'altro. La clitoride, un pene invisibile, è lì, allo stesso punto del pene, è viva, sembra muoversi. Dilattarsi, pungere, spingere e appoggiarsi e strofinarsi, attira imperiosamente la mano, fa cercare luoghi nascosti, in ombra, fa frugare sotto le mutandine, fa restare senza fiato dal piacere, fa chiudere agli occhi, fa andare in trance intanto che il dito sfrega voluttuosamente, ora veloce, ora più adagio, viene voglia di sdraiarsi, di distendere le gambe, di dimenticare tutto, di concentrarsi in un punto incandescente, calamitato, frenetico, insaziabile, che trascina in un volo affannoso che punta sempre più su, più su. Dovevo stare descrivendo la cosa come si deve, perché mi sono sentita subito eccitata e ho fatto autoerotismo. E stranamente mi è venuta voglia di provare con la vagina. Ho sentito che, sfregando forte, qualcosa succedeva, e precisamente nella parte superiore dell'imboccatura e immediatamente dentro, come un invito a continuare, come quando si è cominciato a grattare in un punto del corpo e poi viene davvero il pizzicore, per cui bisogna continuare a grattare per calmare quella sensazione che si è provocata. Continuando a sfregare, ho sentito piano piano l'eccitazione risalire alla clitoride, finché, nonostante in se stessi più sotto, era proprio la clitoride il punto più eccitato e reattivo. Così sono passata direttamente alla clitoride. Ora, lì ho scoperto un altro gesto significativo. Di solito con la mano sinistra evidenzio la clitoride in modo da poterla raggiungere meglio. Questa è la funzione pratica del gesto, ma quella espressiva è di carattere esibizionistico, come dire: guardate, ecco qua. E sulla rivelazione di questo bisogno ho avuto l'orgasmo. Dunque la bambina, vedendo il pene, non può non collegarlo a sue sensazioni di averlo avuto anche lei, visto che di fatto non c'è più, ma qualcosa c'è. Non so se l'ho letto, sognato, pensato, un tentativo laborioso di congiungermi con mia madre. Mi viene in mente che forse la clitoride è connessa a immagini del genere di quella che ho sognato una notte scorsa. Infatti lì appoggiavo la mia pancia nuda a quella della mia madrina Lea. Ora, penso che madrina sia per madre e Lea è il mio secondo nome. Cioè, può essere un gesto erotico che da bambina ho desiderato verso mia madre e il suo significato sembra fare l'amore con se stessa, cioè masturbarsi. Oppure, in senso più lato, amarsi, affermarsi in se stessa. La clitoride serve a quello. Naturalmente, può essere un desiderio di omosessualità. Grande! Che bella! Grande, Andre! Super. La grande Carla Lonzi, ragazze! Come mai hai scelto questo pezzo? Ah, perché questo era un pezzo che avevo trovato anni, in realtà 100.000 anni fa, tipo quando avevo iniziato ad avvicinarmi al femminismo e niente, io sono partita con Tacia Ziparla, poi c'è stata la donna vaginale, la donna clitoridea e così via. E leggetela perché è una grandissima storia. Poi lei ha scritto il manifesto femminista. Esatto. E niente, fondamentalmente è stato un inno alla masturbazione, all'autoaffermazione. Ok? Come la Mannoia dice in una canzone, ci bastiamo sole, no? Bene, direi che abbiamo aperto a bomba con questo inno, grazie. Abbiamo aperto Andrea. Le danze magnificamente. Sì. Bene, allora cosa facciamo? Sono le 18.43. C'è il sole, tutto bene. C'è sempre il sole. E vogliamo ricordare che questa sarà l'ultima puntata prima dell'estate. Riprenderemo a settembre con nuove proposte, una nuova programmazione. Ci saranno tante sorprese, novità all'interno dei canali, quindi seguiteci su Instagram e Facebook. Insomma, non rimarrete soli a lungo. No, per niente. Sole, soli e solo. Torneremo con grande grinta. Dai, facciamo un altro stop musicale. Presentaci, yes, la prossima canzone, allora. La nostra prossima canzone è quella che dà il titolo alla puntata di oggi. Che goduria. Wow. Insieme a te non ci sto più, però nel ritornello è presente, insomma, il titolo della puntata di oggi. Questa bomba, allora. Forza Caterina. Quella persona non sei tu. per me e ballate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, e non mi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando allora, visto ecco la che... nostra maestra, come si prepara? È arrivata. No, no. No, visto che è l'ultima puntata prima dell'estate, volevo un po' sponsorizzare, pubblicizzare, parlare un attimino, ma molto brevemente, di alcuni lavori che sono stati fatti negli ultimi mesi da Non Una di Meno e dal collettivo di Degenerazione. Allora, Non Una di Meno si è occupata principalmente di produrre questo kit, si chiama kit di prevenzione alla violenza, come riconoscerla, e è stato scritto in un modo molto semplice e diretto, lo trovate comodamente online sulla pagina di Non Una di Meno, anche su Facebook, e l'abbiamo presentato proprio settimana scorsa durante un'iniziativa in piazza Missori, proprio per ribadire l'importanza del lavoro di cura, che viene di solito non riconosciuto, un lavoro invisibile, e dove soprattutto in questo periodo storico a causa del Covid molte donne sono state costrette in casa magari con un virus molto diverso da quello del Covid, anzi non è neanche corretto chiamarlo virus perché sembrerebbe quasi una malattia, invece no, è proprio la violenza è un fenomeno sistemico, molto ben strutturato purtroppo nella nostra società, e quindi alcune donne si sono trovate proprio in casa costrette in situazioni non particolarmente facili. E questo kit vuole appunto essere una sorta di guida, strada, proprio per riconoscere anche le violenze che a volte sono più sottili, più nascoste, a partire appunto anche da quelle verbali, quelle psicologiche, che appunto agiscono in una maniera a volte molto costante, ma non così visibile, e a volte proprio non ci si rende nemmeno conto di continuare a subire determinate violenze. Questo kit serve proprio a rendersi conto magari di alcune relazioni tossiche, di comportamenti macisti, maschilisti, e provare anche, ci sono alcuni contatti, in particolar modo dei centri antiviolenza che fanno parte della rete Dire, a cui in caso, per chi si trovasse in queste situazioni, si può rivolgere. È stato proprio un lavoro corale, più persone hanno partecipato alla scrittura di questo kit, e durante la presentazione è stato fatto anche un gioco molto semplice, però molto diretto di impatto, proprio per prendere coscienza del fatto che a volte ci troviamo in queste situazioni e nemmeno ce ne rendiamo conto. Questo gioco che gioco è? È sulla falsa riga di un gioco che è girato su Facebook negli ultimi mesi, dove facevano vedere delle persone tutte sulla stessa linea e facevano delle domande sulla base dei privilegi, mm-hmm, che a volte una persona ha e nemmeno se ne rende conto, e potevi andare avanti solo se godevi di questi privilegi. E quindi le persone che subiscono discriminazione, non hanno pari opportunità, diritti, rimanevano indietro, quindi si poteva vedere a livello visivo, era abbastanza di impatto perché vedevi la differenza di spazio coperto. E quindi su questa falsa riga abbiamo provato a fare un gioco, non è proprio corretto chiamarlo così, perché poi appunto andava a toccare magari diversi tipi di violenze, ovviamente fatto con cura e sensibilità, proprio per evitare che le persone potessero anche non sentirsi a proprio agio in quel contesto. Però diciamo che progrediva invece chi probabilmente invece aveva subito più violenza nella sua vita, e quindi diciamo che doveva essere una presa di coscienza fatta in modo molto blando, ovviamente. Però è stato carino venerdì scorso, proprio perché c'erano tante persone in piazza, e anche nonostante tutte le circostanze della situazione intorno a noi, però è stata un'iniziativa anche molto, molto colorata. E io ci tenevo anche prima dell'estate a sponsorizzare appunto questo kit, perché trovo che sia uno strumento molto utile, soprattutto anche per le nuove generazioni che magari appunto si confrontano per la prima volta con relazioni, non per forza di coppia, ma anche all'interno della famiglia, amici. E purtroppo anche chi le agisce a volte non è cosciente di agire queste violenze, quindi credo che sia molto importante. E di pari passo Degenerazione, che è un collettivo che si occupa di questioni di genere, ha voluto creare anche un opuscolo sulla mascolinità tossica, perché l'ottobre scorso abbiamo fatto un festival a Lambretta, un festival anche lì organizzato con altri collettivi che si occupano di queste tematiche, proprio per affrontare la mascolinità e le sue diverse sfaccettature, che possono essere a volte molto positive, altre volte invece negative. Questo opuscolo parte proprio con un decalogo di quello che secondo la nostra società è il vero uomo, e ovviamente diciamo è molto enfatizzato, proprio perché a volte noi siamo anche immersi in questa cosa, tipo la cosa più banale che mi viene in mente è: l'uomo non piange. Sì. Non mostra questo sentimento. Mostra i sentimenti in generale. Esatto. Quindi c'è questo decalogo che deve essere molto... È d'impatto, ti fa rendere conto in che cosa siamo abituati. E invece poi pian piano lungo nel resto dell'opuscolo si decostruisce questa immagine, questo stereotipo, proprio per proporre dei modelli diversi di mascolinità. E è bello come lavoro, perché anche questo è stato scritto a molte mani, ma soprattutto hanno anche partecipato degli uomini, che quindi hanno deciso di mettersi molto in discussione, mettendo anche pezzi di sé. Penso anche che sia anche un modo per togliersi un po' dallo stereotipo anche per loro. Sì. Cioè, nel senso, oltre che vincere insomma la mascolinità tossica, e anche togliere delle nevrosi che anche molti uomini hanno relativi a dei modelli che vengono costruiti dalla società. Sì. E penso sia utile anche per loro in realtà partecipare a... Eh sì, perché il problema è questo un po' del mettersi in discussione e anche di fare politica, diciamo, in senso più largo. Certo. Che anche tutto il movimento femminista spesso si pensa le donne comunque. Esatto. Questo lavoro poi anche per educazione lo fanno nella loro vita, e gli uomini sono meno abituati, adesso sto parlando in una maniera molto binaria, mi rendo conto, però noi ci siamo rese conto con il collettivo di Degenerazione che spingere su queste tematiche, se veramente non c'è una messa in discussione, una collaborazione con gli uomini, mancherà sempre un pezzetto. No, perché ci sarà una presa di coscienza da parte del femminile, non una presa di coscienza da parte del maschile, ma verso anche se stesso. Esatto, immagino. Esatto. E quindi questo opuscolo vuole essere un po' una sorta anche questo di sveglia, certo. di guida, appunto non è il termine più adatto, però l'intento è quello anche di divulgarlo nelle scuole. Faremo da settembre delle presentazioni e adesso è nell'ultima fase, è stato rivisto, proprio vanno messi a posto gli errori di battitura e speriamo che nelle prossime settimane o comunque a settembre si possa presentare in maniera un po' più ufficiale, ed è un po' anche la continuazione del lavoro del festival fatto appunto ad ottobre, e spero che in tanti lo leggano, perché comunque è anche interessante, anche solo per far partire un inizio di riflessione. E questo ancora non è online, ma appena sarà online anche dalla radio lo sponsorizzeremo. Quello che volevo dire, quando faremo poi le puntate che riguarderanno queste tematiche, leggeremo sicuramente, leggerai magari l'opuscolo. Sì. Per... io chiameremo anche magari altre componenti, o altri componenti, perché ci sono qualche uomo nel collettivo di degenerazione, c'è, portiamolo, per fortuna, e sì, sarebbe bello, l'idea è quella, proprio per un attimino mettersi tutti quanti e tutte quante un po' in discussione. Molto, molto bene, ottimo. Seguiteci. Direi. Vuoi ripetere, ripetiamo magari dove possono trovare, allora, sì, informazioni? Il kit di prevenzione alla violenza, come riconoscerla, lo trovate sulla pagina di Non Una di Meno Milano, la pagina Facebook, oppure sul sito internet, è tutto completamente online, e cartaceo le prossime iniziative, che adesso al momento non ce ne sono calendarizzate, almeno per questa settimana, però immagino che qualcosa magari ancora accadrà. E invece quello di degenerazione ancora non è online, appena sarà definito nei prossimi giorni, messo a posto, lo metteremo online sulla pagina Facebook di degenerazione. Comunque vi terremo aggiornati sui nostri canali, non vi preoccupate. Sì, passeremo anche dalla radio, figuriamoci. Bene, Marco, sei stata... precisissime, con questa voce bella, bella profonda. Cosa faccio? Metto grazie. Un po' di musica per alleggerire dopo l'ennesima mappazza che faccio. Ma che mappata, ma meno male che ci sei tu che ci informi. Sono una canzoncina sbarazzina. Vai. Una canzoncina sbarazzina. È una canzoncina da sprizzicoriz. Che da bello. Piri. Da piri. Per tutti i piri che sono all'ascolto, piri è maschile, femminile, neutro, tutto quello che volete. E questa è per voi, ballate. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, Tintarella di luna, tintarella di luna. mai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessei tele di ragno, e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome, e fui soltanto un'isterica. Inno alla donna. Stupenda, immacolata fortuna, per te tutte le culture del regno si sono aperte, e tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così come ti abita il pensiero divino, fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. Alda Merini. L'ho detto nella registrazione, stavo per dire Alda Merini. Bene, allora, queste io ho voluto portarvi due poesie di Alda, perché ci tenevo un po' a chiudere così un po' il percorso poetico. E la prima è stata scritta subito dopo il manicomio, quando lei venne sterilizzata completamente, e niente, sta un po' a raccontare, diciamo, il sentimento che lei provava all'interno del manicomio, soprattutto quando lei dice: non è mai stato detto e raccontato nulla di quello che mi hanno fatto, di come mi hanno denigrato come donna, e tutte queste cose sono uscite fuori dopo. E Alda le ha sempre decantate così nella sua poesia, usandola come momento di cura, diciamo, no? La seconda poesia invece, Inno alla donna, beh, diciamo che parla un po' da sola, non c'è bisogno che io dica niente. E le poesie vengono da due libri. La prima è Fiore di poesia, che è una raccolta di tutte le poesie migliori di Alda, e poi l'altro è Clinica dell'abbandono, da dove viene Inno alla donna, dove sono proprio raccolte tutte le poesie che lei ha scritto in manicomio. Ci tenevo comunque a fare questo intervento anche per ricordare che avevamo realizzato una puntata recentemente, che non mi ricordo adesso il titolo, ma era proprio sul corpo violato, corpi violati, e quindi era anche un po' visto che avevamo anche deciso un po' di ripassare tutti gli interventi fatti, visto che all'ultima puntata, allora vi ho donato questo a tutti e a tutte. E niente, adesso direi che possiamo magari mettere un altro pezzo, se non avete domande o dubbi, perplessità. No, Alda Merini parla da sola, non dobbiamo dire nulla. E questa era una piccola pillolina. Sì, era una piccola pillola. E è sempre un piacere. Bene, dopo Alda Merini, una splendente ci sta. Wow, ma direi di sì. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, gli avrà una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para. Sorridente, adesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendida, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente, mi distingo fra la gente, pure rapidamente, grazie a un bisturi tagliente. Bellissima questa canzone. Grazie, pazzesca. Ge, che ci fai sempre ballare. Meno male. Bene, sono le 18. Le 18, sì. Le 19.08. Siamo già fuse, si vede che il caldo sta, sì, sta facendo i suoi effetti. C'è un sacco di afa. Prima avevamo più tenuta. Potevamo rimanere serie per almeno 2 ore, dai. Sì. Oggi per niente. Cazzata. Poi questa puntata bellissima, perché il pubblico, magari gli ascoltatori non lo sanno, ma noi stiamo improvvisando tutto e sta venendo tutto molto improvvisato, ma bello. Adesso stiamo improvvisando questa chiamata, la nostra compagna amica Giulia Ribelle, che si trova a Edimburgo. E quindi io direi, chiamiamola. Chiamiamo, vediamo, facciamo questo esperimento WhatsApp. Ci segue da lontano sempre. Ciao Ribelle. Ciao. Come stai? Sentirvi. Anche per noi è bellissimo. Hai finito di zappare? Hai finito di zappare? Sì. Sono troppo soddisfatta. Grande. A proposito di lavori da uomini e lavori da donne, che dicevate prima, ho anche sradicato una rosa morta. Per... Mamma mia. Vabbè, sono molto, che macia, orgogliosa di me stessa, sì. Grande. Sì, veramente, la donna alfa proprio. Sì, sono contenta, perché vi saluto da Edimburgo, comunque avevi ragione, sono le 18.10, quindi non hai sbagliato. No, ma no, in realtà... Da me sono... Ho sbagliato per le ore qua, però, quindi da te è giusto, ho detto giusto. È giusto, da me hai detto giusto, quindi stavi pensando a me, ovviamente. Certo, già, siccome pensavo a te, quindi mi è venuto già a dire l'orario corretto, insomma... Il meridiano, esatto, di Greenwich. Esatto. Senti, ma quindi come, esatto, sta andando lì? Che fai oltre a zappare? No, faccio sempre il mio lavoro, insegno. E abbiamo sistemato molto la casa in modo equo. Il mio compagno lavora pavimenti, io lavoro in superficie, quindi abbiamo diviso i ruoli. E adesso stiamo sistemando il giardino, diciamo. E quindi si lavora un po' fuori all'aria aperta. Ma che intesa, ma che figo soprattutto. Ma che figo soprattutto. Ma quindi c'è, cioè, l'orto è praticamente in casa vostra? È in giardino. Allora, una parte del giardino abbiamo messo i fiori, e nell'altra parte sto appunto lavorando la terra per poi piantare l'insalata. se mai verrà. Mamma, ma che bello! La prossima puntata, l'insalatina a Edimburgo. Ti richiameremo per capire, per capire che punto sei. Beh, ma tu sei una ribelle come, come tutte noi, quindi ricordiamo a, agli ascoltatori che anche Giulia è una ribelle, quindi sicuramente anche lei avrà delle nuovissime proposte per settembre da raccontarci da Edimburgo. Esatto, tra l'altro oggi, visto che ci sentiamo, visto che appunto stiamo un po' ricapitolando, volevo leggervi una brevissimissimissima poesia di Rupi Kaur che avevo preso. Ma certo, ma certo, che brava anche tu. Che è la mia preferita. Certo. Ed è dedicata a tutte le donne del mondo. E allora ve la leggo in inglese, è brevissima, sono tre righe, e poi in italiano. Benissimo. E poi vi descrivo anche il disegnino che c'è sulla, sulla pagina. L'illustrazione grande. Allora, c'è, grazie, grazie per la parola tecnica. Allora, vai. Vado. What is the greatest lesson a woman should learn? That since day one, she's already had everything she needs within herself. It's the world that convinced her she did not. Quindi la traduzione, ne ho trovate diverse, ma vi faccio quella che preferisco. Qual è la più grande lezione che una donna dovrebbe imparare? Che fin dal primo giorno ha già in sé tutto ciò che le occorre. È il mondo che la convince del contrario. Questa è la mia poesia preferita e la dedico a tutte le donne del mondo, tutte voi. Bellissima, fichissima. Bellissima, e nell'illustrazione c'è una donna stilizzata di schiena con le mani dietro la schiena che trasportano un pezzo di mondo, quindi abbiamo degli alberelli stilizzati, una casetta, il mare e i pesciolini. No, ma che bello. Come se lei appunto portasse su di sé poi alla fine tutti i pesi dell'universo e quant'altro. E questa è proprio la mia preferita in assoluto. E brevissima, tra l'altro. All'ultima puntata. Sì, sì, sì. Dopo ve la mando anche. Grande. Anzi, potremmo fare una bellissima Instagram story sul nostro canale meraviglioso. Certo. Certo, certo. Fino basso, danno, direi. Esatto. Quindi possiamo lanciarla lì. Giulia, ma che ti bello va bello sentirvi, ragazzi. Sì, è vero, è vero. Ma certo, ma infatti ti abbiamo pensato, ti abbiamo chiamato per forza, sei sempre farlo con noi. La nostra giramondo, Giulia. Sì, sì, ma vi penso sempre, vi ascoltiamo, anche vi abbiamo ascoltato anche la scorsa settimana insieme, io e il mio compagno. Ci hai capito, abbiamo gli ascoltatori da Edimburgo, pazzesco. Siamo international. Wow. Assolutamente, assolutamente. Giulia, ma ti va di spiegarci, perché noi alla fine ti abbiamo conosciuta, che ci hai spiegato praticamente perché hai scelto Rupi Kaur come primo intervento, tra l'altro, della prima trasmissione, sì, che avevi fatto. Ti va di spiegarci, sì, perché l'amore che tu hai, insomma, che hai trovato nelle letture di questa poetessa, scrittrice? Certo. Praticamente lei, forse sarà anche per l'età, perché appunto siamo praticamente coetanei, lei ha un modo di scrivere che è impressionante, scrive in modo molto diretto e questo a me piace, perché il giro di parole dopo un po' non servono più, cioè quando si vuole denunciare qualcosa bisogna dirlo in modo diretto e lei lo fa. E poi affronta tantissime tematiche diverse, quindi nel momento in cui si approccia a un suo libro e si inizia a leggerlo, la cosa che ho amato è che ho ritrovato nelle sue poesie me stessa in diversi momenti della mia vita. E quindi nel leggere le sue poesie mi sono proprio impersonificata, ho detto ah, questo è successo anche a me, oppure questo è successo a una persona che conosco, questo è una storia che ho sentito, però messe in modo veramente poetico, con anche delle illustrazioni meravigliose. Fatte sempre da lei? Sono in grado, fatte sempre da lei, sì. Lei anche disegna e lei dice proprio che attraverso la poesia, attraverso il disegno, lei proprio si esprime, si libera, si ricostruisce, si ritrova, ed è anche secondo me una fonte di ispirazione, nel senso che per lei la poesia è del disegno, per ognuno di noi può essere qualsiasi altra cosa, l'importante è che se troviamo il nostro modo di esprimerci lo facciamo, cioè troviamo proprio qualcosa che ci fa stare bene e che ci fa entrare in contatto con noi stesse, perché uno dei suoi messaggi principali è che non dobbiamo dimenticarci di noi stesse, cioè va bene fare, certo, essere impegnate, tra l'altro lei in questo periodo è impegnatissima su Instagram con Black Lives Matter, è proprio una grande cassa di risonanza, sta raccontando davvero tante storie di donne, di uomini che hanno subito violenze negli Stati Uniti, in Canada, e quindi lei è comunque molto attiva, adesso si sta dedicando a quello, quindi proprio a raccontare storie e a usare anche giustamente la sua popolarità per arrivare ad un pubblico mondiale. Però appunto, no, cioè, è giusto, lei quello che afferma, è giusto essere impegnate, bisogna essere impegnate, non bisogna dimenticarsi poi di prendersi cura di noi stesse, quindi trovare qualcosa per noi, da fare per noi stesse, per entrare in contatto con quello che è il nostro corpo, la nostra mente e la consapevolezza che poi abbiamo di noi. Questo secondo me è un messaggio molto bello di cui spesso ci si dimentica. Vabbè, è un messaggio di vita giustamente... proprio. Certo, che comunque siamo tutte prese, anche per fortuna, da tante attività, da tante cose, però riuscire sempre a ritagliarsi nella giornata, quotidianamente, uno spazio per se stesse. Certo. Questo è il messaggio, secondo me. Quindi a me, mi sono proprio innamorata a prima vista, poi ho iniziato a regalarlo a tutte le mie amiche che sanno l'inglese, le ho regalato i libri a tutte. Ma certo. Ci si innamora sempre delle cose in cui ci si immedesima, poi, cioè ti capisco, sì, molto, mi empatizzo molto in quello che stai dicendo, un po' è stato che così anche per me, per la Merini, perché è proprio una poetessa che da quando sono piccola, da quando avevo 12 anni, che ho tutti i suoi libri, cioè mi colpisce, mi ci ritrovo, mi... E poi creo, poi tra l'altro le parole descrivono le immagini, no? Quindi Rupika Aur fa proprio questo tutto insieme, no? Lei scrive e poi muta in immagine quello che scrive. È molto bello questo lavoro che fa, secondo me, artistico, poi. Sì, condivido, sì, esatto, molto. Condivido. Sì. E quindi consiglio, insomma, a chi è interessato a approfondire, di guardare la sua pagina, pubblica spesso delle poesie lì, non tutte ovviamente, normale, in base poi al momento storico, aveva fatto anche degli scritti un po' più lunghi sul Covid, la situazione della pandemia mondiale, e erano molto belle, e, insomma, un po' di ragionamento globale, non soltanto singolo, ma insomma senza dimenticarsi che la pandemia è mondiale, proprio perché è in tutto il mondo, anche se poi alcune parti del mondo non vengono ricordate, purtroppo, però è vero. Lei ha scritto un pezzo molto bello anche su questo, però un po' lungo, è sulla sua pagina. Sì, infatti volevo lanciare questa cosina. Effettivamente lei su Instagram è super attiva e grazie a te io lo sto un po' seguendo, e fa un lavoro a 360 gradi, nel senso che è una donna che vive d'arte ed è veramente una fonte di ispirazione, perché è giovanissima e insomma, diciamo che leggendola ti apre un po' a delle speranze, delle speranze di coscienza, e di autocoscienza, non so come spiegare. E appunto il fatto che lei consideri una insomma una, la lotta anche la sua stessa vita e la vita di qualsiasi persona, cioè lei fondamentalmente ci dice che dobbiamo partire da noi, no? E quindi di coltivarci anche, oltre che appunto essere interessati nella giustizia comune e ovviamente essere attivi per questo. Però appunto è molto bello il fatto che lei non si dimentica anche mai di una parte interiore, una parte personale. E credo che è molto bello che tu ce l'abbia fatta conoscere, perché lei è veramente una bomba. Non so come spiegarlo, cioè non so come definire in altro modo. No, lei è veramente, cioè, incredibile. Poi, appunto, come dicevo prima, impegnatissima in questo periodo per raccontare storie sconosciute di razzismo, vissute poi da varie fasce della popolazione, a vari livelli, insomma. E quindi è molto interessante, perché poi magari leggendo anche da una Instagram Stories, ad esempio, se sono interessata poi vado a cercarmi gli articoli relativi a quell'argomento. Esatto. È ovvio che sono tutto, cioè, materiale che ovviamente è in inglese, quindi chi ha dimestichezza con la lingua può raggiungerlo, perché poi molte storie in italiano non vengono neanche riportate in Italia. E quindi sicuramente è anche, come hai detto tu, è una fonte di ispirazione. Sì, sono d'accordo. Beh, però anche per dire, la sua scrittura è molto chiara, è molto semplice anche in lingua. Sì, e poi ti lancio lì un... poi potresti tradurlo tu. No, no, ma ci sono, no, sono tradotti i suoi libri in italiano. Okay. Si trovano su Amazon. Su Amazon si trovano. Okay. Comprato, effettivamente. Sì. No, in realtà è perché ho cercato quello in italiano. Lingua. Sì, allora in italiano ci sono. È ovvio che è una traduzione, e a volte io le ho lette, alcune traduzioni non, secondo me non. Poi non sono una traduttrice, per carità, però alcune traduzioni io non sono d'accordo. Perché secondo me la poesia è anche interpretazione, quindi ovviamente se tu la leggi in lingua originale poi ti parla in un modo unico, la traduzione è già passata da qualcun altro. Vabbè, ma qua entriamo nel dilemma delle scuole di pensiero sulle traduzioni. No, io dicevo proprio delle poesie, non tanto dei... cioè proprio la sensazione che mi ha dato leggere le poesie in italiano. Però se una persona vuole fare un primo approccio, ci sta. Ci sta. Okay. Va bene, Giulia, io direi che... Grazie. Ci hai veramente, come grazie, sempre, illuminato, grazie mille. E tra l'altro, visto che tu non puoi vederci, io ti volevo dire che in questo momento siamo praticamente tutte qua, è bellissimo, ci sei anche tu, anche se virtualmente, ma ci siamo tutte praticamente, quasi adesso ti tutte. Mandiamo adesso ti mandiamo una foto per salutarti. Brava. Mancano un paio di persone, brava. Finalmente all'ultima puntata abbiamo realizzato esatto. Questo sogno. E... allora mi mando la foto con la zappa, va bene? Perfetto. Certo. Bella. Grazie, Giuli. Grazie, che bello. Grazie, sentirti. Ragazzi. Ciao, bella. Un bacione. Un abbraccio. Bacio. Buon Edimburgo. Ciao. Ciao. Beh, allora io direi che, visto che Rupi Kaur, sempre su quell'onda lì, dobbiamo pensare a noi stesse, la prossima canzone è Un'estate al mare. Oh yeah! Pensiamo a noi stessi andando al mare tutte certo. Quante, direi, no? Ci sta. Che meraviglia. Vai. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Con il salvagente strade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, sogni più vicini. Senti questi gabbiani, i vocalizzi della Giuni Russo. La nostra Giuni. Erano gabbiani? Era lei che faceva i vocalizzi. Okay. Era lei che faceva i vocalizzi. Nel frattempo ci ha raggiunto la nostra Marti NQTS. Hola. Ciao Marti. Ciao. Che ci porti? Ma io volevo leggere una buona notizia di non una di meno Toscana, cioè non una di meno Firenze, Pisa e Company. E quindi leggo un estratto del loro documento. È di poche settimane fa la notizia della risoluzione approvata dalla regione Toscana per la concretizzazione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi cosa succede? Che la giunta regionale si impegnerà a realizzare tempestivamente la riorganizzazione e la riqualificazione della rete consultoriale che, come sappiamo, è stata smantellata negli ultimi anni, garantendo quindi l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia nei poliambulatori che nei consultori, e assicurerà in questi presidi ospedalieri la presenza di almeno il 50% del personale medico sanitario non obiettore. Il che è una vittoria. Un traguardo, esatto. Direi. Non indifferente. Esatto. E in caso in cui ci sia una carenza del personale medico non obiettore, cosa che appunto potrebbe succedere, si impegneranno a garantire la presenza di questi non obiettori facendo un po' di... cioè prendendo dei medici nuovi e facendo... arriva un ventilatore. A proposito di medici nuovi. Esatto. Quindi, insomma, garantendo l'introduzione di nuovi concorsi pubblici per medici non obiettori. E un'altra cosa molto importante è che... l'ho perso... avvieranno una fase di sperimentazione che preveda l'allungamento della tempistica limite dell'interruzione di gravidanza farmacologica fino alle famose 9 settimane, e in più prevederanno, forse, speriamo, ad ogni struttura sia pubblica che privata un presidio ospedaliero e con un consultorio. Ci auguriamo che tutte queste cose meravigliose, descritte in realtà anche un po' dalla legge 194, vengano assicurate, e queste proposte, che sono delle buonissime proposte, soprattutto in questo periodo in cui in realtà vengono a mancare dei diritti, come abbiamo visto nelle Marche, in cui si è fatto un grandissimo passo indietro, Speriamo che invece in Toscana si riesca ad arrivare a questo grande obiettivo che abbiamo da ormai anni, e che le altre regioni, invece di imitare le Marche, esatto, poverine, facciano un po' come la Toscana. Io volevo portare questa micropillola, ringraziando anche le compagne di Non Una di Meno Toscane, che ci hanno dato una buonissima notizia. Poi ci risentiremo tra qualche mese per capire e vedere se effettivamente succederà. Fatto. Esatto. Grande Martin. Questa è la mia Sono stati di un sacco di progressi comunque. Abbiamo avuto Giulia che ci ha raccontato il kit, queste nuove progressi di Non Una di Meno. Quindi direi che inizieremo un settembre a bomba, allora, con tante news, si spera. Va bene. Intervalliamo allora con un'altra musichetta. Facciamo un po' di festa? Dai. Dai. Questa sera cambia la mia vita, da questa sera, non voglio fare più l'abbandonata, non voglio fare, quante lacrime buttate via, quante notti con la nostalgia, lui diceva che era colpa mia, soffocavo la sua libertà, gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità, se un giorno ti scoprissi innamorata. E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa senza di te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa senza te. Stasera sono più contenta, da questa sera. È ritornato che aspettavo tanto, è ritornato. Non sembrava più neppure lui, uno sguardo che non conoscevo, e mi ha detto che era colpa sua, al diavolo la libertà. E mi ha detto senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te. Se un giorno ti scoprissi innamorata. Si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te. Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa insieme a te. Eccoci. Eccoci. Eccoci. La canzoncina proprio. Basta, togliete il microfono a Jessica. Basta, DJ, basta, che palle. Sei logorroica. Va bene, cosa niente, succede? Mi introduco da sola. Ah, c'è Andrea, sono le 19:36, giovedì 2 luglio. E niente, la fa è sempre di più perché abbiamo anche chiuso le finestre, visto che i nostri compagni fanno casino giù da basso, e quindi adesso siamo costrette a usare il ventilatore chiuse dentro nella stanza. Giù da basso proprio. Giù da basso. Va. Vai Andre, scusami. Salutiamo. No, è bello che fate il culo alle persone giù, cioè. Che non ci sono, tra l'altro, ma dopo riceveranno comunque il culo quando andremo giù. E che volevo dire, stanno bevendo in nostra assenza. Scusa, io mi sono accorta. Posso dire, ti prego. Li ho sgamati. Vabbè, abbiamo già iniziato il cazzeggio. Abbiamo iniziato con la clitoride, direi che le parolacce, cioè, sono obbligatorie. Sì, dobbio. Sì, posso. Bene, Andre, illustraci, dimostraci, leggici che cosa... Niente, no, in realtà io ho scritto un piccolo pezzettino per voi riguardante l'arte e la discriminazione che c'è all'interno dell'arte. Ovviamente da storica dell'arte quale sono, non potevo che non farlo. Grande. Ma voi, cioè, voi non riuscite a vederla, perché ovviamente questa è una trasmissione radio, ma Andre ha degli occhiali pazzeschi. Cioè. Da prof. Da storica dell'arte. Da storica dell'arte. Niente. Comunque, appunto, visto che nelle ultime puntate abbiamo parlato anche di violenza di genere e soprattutto di discriminazione di genere, vorrei portarvi appunto all'interno del mondo dell'arte, perché di questo non si parla molto. E in realtà c'è una grandissima problematica all'interno delle strutture e delle istituzioni artistiche, perché le donne non vengono quotate e riconosciute. Ma pensa a te, guarda, incredibile, non l'avrei mai detto. Sì, ma abbiamo delle quotazioni, delle disparità di quotazione che sono incredibili. Tipo 50%? No, di più. Wow! Tipo quasi il 70. Ok, perfetto. Perfetto! Scriveremo il manuale di come dovremo impiccare i responsabili di tutto ciò. E infatti volevo illustrarvi perché che cosa appunto succede proprio all'interno dell'arte, che dovrebbe essere appunto una espressione umana e espressione di verità, d'altronde. E in realtà noi cosa facciamo? Entriamo nei musei e vediamo che cosa? Che la storia dell'arte è costellata di donne, meraviglie statuarie, donne sempre con questo sguardo languido, nude tendenzialmente. È un sacco bello vedere le donne nude, però devo stare zitte e guadagnare di meno. Giusto, no? Sì, sì, sì, esatto, beh, tendenzialmente è questo. E appunto queste donne che ti devono sedurre, queste donne che tra l'altro diventano poi che cosa? Espressione delle allegorie, le allegorie delle virtù, no? Le donne diventano qualcosa di incredibile all'interno dell'arte, però loro l'arte non la possono mai fare. Non la possono fare. Assolutamente no. E c'è questo gruppo di attiviste e artiste che mi fa molto piacere citare, che sono le Guerilla Girls, che non so se conoscete. Io ci ho fatto la tesina delle superiori. Wow, pazzesco! Le sinergie qua. E niente, appunto, e loro che cosa chiedono allora? Cosa chiedono le ragazze travestite di scimmiotte, da scimmiotte? Da scimmiotte chiedono... Perché le donne devono essere nude per entrare al Met Museum, che è il Metropolitan Museum, che è uno dei musei più importanti americani. E poi in realtà questa fu la loro prima domanda, e poi l'aprirono un po' a tutti i musei del mondo. Perché alla fine viene fatta da loro un censimento veramente della presenza delle donne all'interno dell'arte, e c'è questa disparità. L'83% delle donne, cioè dei quadri rappresentati all'interno dei musei, rappresentano donne nude, e soltanto il 3% delle artiste presenti sono donne. Ok, questo succede anche all'interno delle accademie, per esempio la maggior parte delle accademie è piena di, cioè quasi il 70% degli studenti accademici sono donne, e poi in realtà ne trovano l'occupazione quasi solo il 5%, cioè, rendiamoci conto della disparità all'interno, ed è per questo che c'è una grande rabbia da parte di chi è attivista all'interno dell'arte, perché questa cosa non viene mai sottolineata, non è stato mai fatto molto. Eppure di studi ce ne sono stati fatti, e una di queste è Linda Nochlin, grandissima storica dell'arte, che scrive questo pamphlet chiedendo perché non ci sono state grandi donne nella storia dell'arte. Ma lei, e questo è proprio è un libro di Linda Nochlin. Io libro, l'ho letto per la, sì, esatto, per la tesi. È un piccolo libricino, piccolino, è un saggio, sì. Fondamentalmente consigliamo di leggerlo. Esatto, perché fa un po' riflettere proprio su che cosa significa l'educazione alle pari opportunità. Perché quello che dice la Nochlin è appunto che la storia dell'arte non è neutra. Dal punto di vista del genere, insomma, bisogna abbandonare questa torre d'avorio di autoreferenzialità della storia dell'arte e per cominciare a leggere l'arte nel cuore della complessità dei rapporti sociali, dei suoi diversi contesti storici e culturali e attraverso il suo coinvolgimento con l'ideologia. In questo senso, appunto, la ricerca femminista nel campo della storia dell'arte mostra fino a che punto un movimento che ambiva a un rivolgimento totale dei rapporti tra i sessi abbia potuto mettere in questione le fondamenta di una disciplina accademica. È stato l'emergere di un movimento delle donne a rendere visibile il sessismo presente all'interno delle istituzioni artistiche e il modo in cui l'attività delle donne è stata esclusa dai processi di valorizzazione, per essere per lo più relegata e diminuita nel quadro di un sistema di valutazione sessista. E il punto, appunto, scrive la Nochlin, non è quello di andare alla ricerca di una improbabile Michelangelo donna, ma di interrogarsi su ciò che determina la grandezza in campo artistico. E la ragione dell'assenza delle donne dalla storia dell'arte deve essere ricercata nelle condizioni di accesso al mestiere stesso di artista, nel carattere sessuato della formazione, nella persistenza di una serie di pregiudizi che riguardano il significato dell'arte e il suo ruolo nella società. Quindi la domanda perché non ci sono state grandi artiste è capziosa proprio perché sottintende questi pregiudizi, dissimulando quello che è invece il nocciolo della questione, il mito del grande artista, ovvero il maschio bianco di che occidentale tendenzialmente, di ceto medio tendenzialmente, e questo è, insomma, è come se fosse un individuo astorico, un qualcosa di imprescindibile, no? E dall'educazione, cioè, nel senso, nasce l'artista, fatto e finito, non è vero, perché per esempio anche Giotto alla fine ha avuto dei maestri, è un po' la leggenda, è un po' da lui che nasce un po' questo mito. E appunto la mancanza di riconoscimento di cui soffrono le artiste quindi non è da attribuire a caratteristiche individuali, ma una serie di pregiudizi istituzionali e discorsivi che hanno di fatto ostacolato l'espressione artistica delle donne. Da sempre, e quindi non abbiamo un'arte, cioè, anche se si va alla ricerca di un femminile nell'arte, anche dalle grandi artiste ottocentesche che banalmente loro però seguivano un modello educativo assolutamente maschile, ok? Quindi loro non hanno potuto sviluppare una forma d'arte partendo a priori da delle competenze tecniche che sono state insegnate loro. Immaginate che comunque all'interno delle accademie loro non potevano entrare, no, e ma non potevano neanche iscriversi. Non potevano iscriversi, ma anche quando potevano iscriversi non erano abilitate a determinate classi, banalmente il nudo. Esatto. E quindi appunto... Ma anche quando facevano i loro quadri dovevano sempre firmarsi sotto pseudonimo o sotto cioè un nome maschile. Sì, sì. Banalmente, prendendo in considerazione Artemisia Gentileschi, che forse è una delle più di quelle che conosciamo di più della pre-avanguardia, in realtà lei ne conosciamo soltanto penso un decimo dei quadri, perché poi li ha firmati tutti il padre, sì. E il suo nome viene completamente perso, e questo succede all'interno della storia dell'arte perché molte donne erano molto brave tecnicamente nonostante l'incapacità, cioè l'impossibilità di entrare all'interno delle scuole, però venivano poi noi se si va a fare una ricerca storica di queste donne i nomi si perdono completamente perché vengono assunti dai mariti e quindi i mariti diventano questi grandissimi pittori, sì, che tra l'altro incapaci di tenere in mano una matita. Un altro esempio è la, adesso non mi ricordo il nome dell'artista, della donna, però la moglie di la donna di Rodin, lo scultore, sì. Credo che si chiami Camille. Camille, sì, Camille. Brava, c'è anche un bellissimo spettacolo teatrale su, che tra l'altro è interpretata da una mia carissima amica Federica D'Angelo, che saluto tantissimo. Ciao, e Federica. Lei fa la parte di Camille, che è la moglie di Rodin. Non credo che sia la moglie, no, ma tanto poi ha avuto una storia molto, sì, controversa, di questo rapporto abbastanza tossico con, sì, perché poi lui non le faceva fare nulla. Ma nulla proprio. E lei lo amava tantissimo. Esatto. Abbiamo dei grandissimi esempi di ostracizzazione, soprattutto degli anni 70, delle donne all'interno dell'arte e anche di storiche dell'arte. E sì. Per esempio anche Francesca Linovi, lei era una storica dell'arte italiana che fu uccisa, e lei è quella che ha fatto conoscere a noi in Italia la street art americana, per dire. Comunque, per concludere, vi lancio semplicemente l'ultima cosa, che basta pensare che oggi ancora il femminismo non è considerato un'avanguardia artistica. Certo, non è mai stata considerata. Non è mai stata considerata un'avanguardia artistica, e questo è molto grave perché in realtà copre un lunghissimo periodo di tempo e comunque ci sono state delle innovazioni tecniche e anche all'interno della sperimentazione di nuovi medium che sono state importanti proprio all'interno della storia dell'arte. Non considerarlo è veramente becero, secondo me. Comunque, concludo con una bellissima citazione, secondo me, e un augurio sempre di Linda Nochlin, e dice: le donne possono smascherare le debolezze istituzionali e concettuali, e liquidata la falsa coscienza possono contribuire alla creazione di istituzioni il cui vero pensiero e la vera grandezza siano sfide aperte a tutti coloro che, uomini e donne, abbiano il coraggio di usare l'indispensabile salto nell'ignoto. Yo. Bella. Grandissima. Brava Andre. Niente. Grazie mille per queste, per questa, tra l'altro mi riguarda tantissimo perché anche ho fatto l'Accademia delle Belle Arti e questa anche era, io qua siamo, è una cosa assolutamente palpabile, certo, anche nel 2020 soprattutto. Già. Gioia, è arrivata l'EDG. Allora, parlando con tre artiste qui, a fare il bastian contrario. Artista, ma loro, vedete, abbiamo colonizzato la radio ormai. Qua solo da arte. È arrivata la gagia malvagia. Va bene, allora facciamo che questo intervento lo intervalliamo, visto che è arrivata Gioia, con una canzone che sicuramente sarà una delle sue canzoni preferite. Vogliamo mandarla oppure Merco vuoi aggiungere qualcosa? Ricordiamo che anche, sentiamo. Che anche Gioia è una DJ. Esatto. Della domenica. Una promettentissima DJ. Facciamo partire questa frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba já animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Ciao Gioia, sto cadendo. Come avete potuto notare, abbiamo già introdotto precedentemente la nostra ribelle, ribellissima, genio sregolatessa. È da un po' che non ti vedevamo, Gioia. No, infatti, ma da un sacco che non... Ma dove sei finita? Mic, non lo so, ditemelo voi. Ci sei mancata tantissimo. Ma proprio tanto. Ma dillo perché non c'eri. Oggi, dai, abbi il coraggio. Cosa hai fatto? Vabbè, oggi ho dato un esame. Oh, è una cosa triste. Se la mena. Secchiona, quanto hai preso? No, vabbè, non si dice. Speriamo che comunque sia valsa la pena della tua mancanza. Lo dico io, ho preso 28. Ecco. Vabbè. Dacci la dimostrazione della tua mancanza. Cos'è, devo ripetermi l'esame? Hai pigiato? Allora, se volete, no, vi che palle, cosa... Gioia, allora, mi ricordo solo due domande su tre. Di quelle che... Vabbè, metto una canzone. Sì, ti prego. No, è che adesso improvvisare mi viene un po' difficile. Ho bisogno della mia compara Giulia Mercu. Presente. Brava. Dai, inizia a darmi dammi uno spunto. Che ti sei tagliata la frangetta. Si vede, ah, che sì, ti sei tagliata la frangetta. Si vede, vero. Tutte le volte si vede che mi taglio da sola. Tutte le volte sembra sempre uguale. No, è tagliata precisa. È preci. Come direbbe qualcuno, è preci. Chi è che lo direbbe? Boh, qualcuno. Qualcuno sicuramente. Beh, tipo Giulia Mercu, dici? No, no. No, lei no. Io dico Piri! Oh mio Dio. Non ho capito, non ho sentito bene. Lo puoi ripetere, per favore? Dai Giulia, non ho sentito. Piri. No, no, devi alzare la voce. Non si sente. Giulia, fatti sentire. Mi spiace per questo intramezzo della... Posso dire il tuo cognome? Perché? No, non si può. Ma no, non ci interessa. No, perché mi piace ogni tanto chiamarti per cognome, ma è fusa. Il caldo e il troppo studio, che poi vabbè, parliamone. Sì, infatti io non... Secondo me ha trottoleggiato, ma a dire io non la verità. Mi meritavo quel voto, lo devo dire. Sappiamo, ma io lo so perché tu hai trottoleggiato. La professoressa o il professore che ci sta ascoltando, se è ancora in grado di abbassare il voto di Gioia, che lo faccia, si sta autodenunciando praticamente. Ma io non lo so, raga, davvero, siccome i magistrali regalano i voti, ho questa sensazione. Ma scusa, questo esame quindi, che esame è? Di che cosa tratta questo esame? È un esame che si chiama Politiche dell'immigrazione. Bello! No. Interessante, insomma. Bah, più o meno. Cioè, okay. Secondo me... Hai la faccia di uno che potrebbe averne fatto a meno. Un po' sì, cioè è stato interessante solo stamattina quando dovevo studiarmi tutti i libri di nuovo, cioè rileggermeli senza capire un cazzo di quello che stesse leggendo. Una mattina hai riletto tutti i libri? Più o meno. E lì ho capito che erano già più interessanti, solo stamattina prima dell'esame. Quindi avrei voluto studiare meglio, questo sicuramente. Sennò fino a stamattina mi stava un po' sul cazzo questo esame. Grazie Gioia per il tuo intervento. Grazie possiamo al suo mettere... intervento. Abbiamo perso altri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori. Siamo diventati a due. No, ma non dirlo. Dai, mille che avevamo. No, ma non è vero. Cioè, era per dire. Siamo adesso a 98. Due è solo l'inizio del numero. No, siamo a 92. A 92, giusto. La fine del numero, allora. Grazie a tutti per ascoltarci. No, in realtà io ero curiosa di sapere come mai Giulia, durante la puntata fino ad adesso, ogni tanto, tipo in uno slancio sportivo e entusiasmante, saltava dalla sedia e scappava dalla radio. Vuoi rispondere, Mercu? Che cosa ci nascondi? Chiamo il mio avvocato, Jessica. Vai, avvocato, avvocata o avvocatessa o avvocato. Andava a fare la minzione quotidiana. Cos'è la minzione? No! Cos'è la rimandata, minzione? 18. Neanche il 18 ti meriti. Fuori, esci. Ma hai appena fatto un esame. Vabbè, ve l'ho detto, non me lo sono meritato. La minzione. Allora, visto che parliamo di organi genitali, la minzione è quando vai a pisciare, Gioia. Ottimo. Ma infatti io ve lo dicevo che dovevo entrare io in radio e prendere in possesso del microfono per aumentare l'audience. Guarda come sei sbaccata, tra l'altro. Sì, cioè, Gioia. Anche io non ce la faccio più. Da settembre mettiamo una webcam, ci connettiamo e registriamo tutto, sia l'audio che il video. Ma sai che mi hanno detto che è possibile fare questa cosa? Sì, certo. Mettere per mandare in streaming. Beh, da Lorenzo mi aspetto di tutto. Beh, ma raga, ma questa puntata... Non me l'ha detto Lorenzo, però in realtà è la bellezza. La bellezza della radio è che non potete vedere le nostre facce e la nostra postura. Ma scusatemi, ribelli, ascoltatemi un secondo, ma questa puntata non è registrata, vero? Certo che sì. Ma non diventerà un podcast, vero? Certo che sì. Certo, Gioia, perché c'è il tuo intervento, la gente lo deve ascoltare. Smettila di essere scurrile, tra l'altro, siamo comunque in radio. Ops. Ma quindi volevi raccontarci qualcosa in particolare o...? No, in realtà volevo cazzo Praticamente sto rovinando la puntata che aveva un certo tono fino adesso, ma ovviamente... Secondo me ha bevuto insieme agli altri prima di salire qua a radio. Ma magari. E perché non hai portato il vino? Ma perché magari avessimo bevuto, raga. È tutta farina nel nostro sacco, questo, senza droghe, senza ebbrezza. Naturelle. Siamo drogati di vita. Va bene, quindi... Tecla vuole mettere una canzone? Sono le 19:58. Abbiamo ancora un intervento intelligente comunque. Dopo... Di chi? Mio? No. Direi proprio di no. Se ce l'hai, proponilo. Beh, lo posso improvvisare. Vai. No, non sono pronta. Tutta tua radio. Adesso spengo il microfono per iniziare a parlare. No, magari vai. Dopo, adesso ci penso. No, dopo c'è l'altro intervento, non puoi. Allora non ci sarà l'altro intervento. L'altro intervento lo posso fare dopo per aggiustare quello che sta combinando Gioia. Quindi Gioia, vai avanti pure a fare il tuo intervento e poi io andrò avanti. Il tuo. No, ma io aspetto volentieri. Cosa? Non lo so. Ma io aspetto, un po' come Godot. Aspettiamo insieme Godot. Ma allora, raccontaci cosa hai fatto oggi. Se hai fatto l'esame, sei andata a vedere una casa. È vero. La casa, non ce l'hai detto. La casa è molto molto carina, vecchiotta ma carina. Carina. Esattamente. Quindi questi sono i motivi per i quali tu hai bigiato la radio negli ultimi tempi, giusto? Lo studio, direi la casa. Sì. Direi di sì. Scusate, sì. Devo prendere un po' d'acqua perché mi si sta allappando tutto qua. Minzionando la bocca. Ti si sta pisciando la bocca. Niente ragazzi, niente. Neanch'io ci credo in realtà di averlo detto. Che bello. Sei proprio tenera. Bellissima. Sei molto tenera. Martina ha uno sguardo. No. Martina mi sta guardando malissimo, non avete idea. Sì, mi stai guardando male. Ma no, c'è cosa di palle. Dai, mandate una canzone, vi prego. Eccomi, al primo vuole parlare. Ma allora, visto che sei così in grinta, Gioia mia, perché non ci annunci la prossima canzone da lì? Ma non la vedo. Devo alzarmi. Indovinarla. Cos'era? Obsession? No, così mi sta rovinando l'intervento, Gioia. Ma io non lo so la scaletta musicale cosa propone. Dai, mettiamo Tocca Tocca. Vai. You said no, no, no, I said no, no, no, no. You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. E tocca, torna. Tocca, tocca. Ecco, perfetto. Bene. grazie Gioia per avermi rovinato l'intervento, però lo faccio lo stesso perché the show must gone. Show must gone. Niente. No, no, no, ma... Niente, dai. Niente. È contenta per l'esame, dai, facciamo così. La prendiamo così. Io, in quanto la DJ di questa... basta sedia. Niente, niente, si sta impappinando. In quanto DJ, in quanto DJ ribelle delle ribelli, volevo apportare il mio intervento musicale, che però, essendo molto vergognosa, io non canto, ma vi leggerò il testo di una canzone che insomma parla di... Vi leggerò poi di che cosa parla, che sarà la prossima canzone che ascolterete dopo il mio intervento. E è una traduzione assolutamente scientifica e letterale e precisa delle parole della canzone, che in realtà è in spagnolo. E niente, vado con, secondo me, non so se sarete in grado di capire che canzone sia. No. No, perché non l'ho ancora letta, Gioia. Però grazie per darmi l'assist. Vado. Ti supporterò sempre. La leggo. Qualcosa di Flava. Avventura. Ciao. Basta ascoltare. Sono le 5 del mattino e non ho dormito affatto. Pensando alla tua folle bellezza mi fermerò. L'insonnia è la mia punizione. Il tuo amore sarà il mio sollievo. E finché non sarai mia, non avrò pace. Non vivrò in pace. Conoscevo bene il tuo ragazzo e non era buono. E so che non ti ama a causa del suo modo di parlare. Inoltre, non lo ami perché non è all'altezza. Non sa come farti piacere come vorrei. Vabbè. ma avrò pazienza perché non è competizione. Certo. Quindi non ho motivo di rispettarlo. No, non è amore ciò che senti, chiamato ossessione. Un'illusione nel tuo pensiero. Cosa ti fa fare le cose? Cosa ti fa fare le cose? Ecco, ecco come funziona il cuore. Ben vestito nel mio Lexus, sono andato a scuola. Io vi giuro che ho fatto un training prima di venire qua, l'ho letta a mia madre, cercando di stare seria, ma non ce l'ho fatta. Vabbè. Riferiscono che sei partita, come un matto che ti ho raggiunto. Ti ho cercato e non sono riuscito a trovarti, e questo mi ha preoccupato. Per calmare la mia ansia volevo chiamarti, ma non ne avevo il tuo numero, e meno male. E il tuo amico mi ha già negato. Essere carino mi ha aiutato molto. Questo mi ha portato alla soluzione. So che gli è piaciuto e gli ho dato un'occhiata. Con un paio di piccole parole il tuo numero mi ha dato. Ho chiamato dal cellulare e non hai risposto. Poi ti ho fatto un cicalino. E non c'erano connessioni. La mia unica speranza è che tu ascolti le mie parole. Non posso avere un ragazzo, non prendermi per favore, non è amore, ascoltami per favore. Quello che senti si chiama ossessione, un'illusione, sto perdendo il controllo nel tuo pensiero, cosa ti fa fare le cose? Ecco come funziona il cuore. Mio amore, per Dio, non mi agganciare, aspetta che ci sia altro. Ho preso un appuntamento per lo psichiatra per vedere se mi avrebbe aiutato. Bene, non ho più amici. Solo per parlare di te. Quello che voglio è parlarti per provare a baciarti. È possibile che con l'ossessione si possa morire. Forse pensi che io sia stupido. No, figurati. Privato e anche pazzo. Privato perché? Ma sono molto originale e innamorato. Mi innamoro come gli altri, conquisto a modo mio. Amare è il mio talento. Ti farò innamorare. Mi scusi se ti offendo, ma sono onesto. Con lussi di dettagli, ascolta la mia versione. Pura crema al cioccolato. Si riuniscono e ti divorano. Ti porta in un altro mondo nella tua mente. Vieni a vivere un'avventura, facciamo mille cose folli. Ti accarezzerò che non sono stati inventati. Che cazzo vuol dire? Non è amore, non è amore, è un'ossessione. Non è amore, non è amore, è un'ossessione. Non è amore, non è amore, è un'ossessione. Non è amore, non è amore, è un'ossessione. Prego, col pezzo. Something flavor. Aventura. Hello? Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetar. No, no es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Y una ilusión de tu pensamiento. Eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar. Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con un par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. Puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No, no, no, no. lo que son engaños, espérate que más. Y se cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Será posible que mi obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado. Let me find out. No es amor, no es amor. Es una obsesión. Chissà che avrei indovinato. Io comunque mi sono innamorata. Oddio. Ti sei innamorata della canzone? Sì, della traduzione. Ah, è un gioco carino che, vabbè, non l'ho inventato io purtroppo, però è un gioco molto carino che si può fare anche nelle prossime puntate se il nostro pubblico ci ascolta e ci dà dei feedback. Ma certo, è super divertente. Ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, andiamo avanti lo stesso e lo faremo lo stesso. Anche se annoiamo tutti, no, non è vero, dai, è stato divertente. Ci divertiamo fra di noi, in pratica. Vabbè, è giusto, se non siamo noi le prime a divertirci. Gioia diplomatica. Non siamo noi le prime. Ma certo, così, è vero. Se no venite, vengono qua a fare la loro radio. Appunto, se lo sanno fare meglio, che vengano loro. Ci stiamo incazzando con i microfoni, sto salendo la rabbia. È coperto da... Bello, possiamo mettere... Sono problemi musicali. No, perché volevamo mettere una bellissima canzone finale, che la mettiamo lo stesso, perché certo, ovviamente non possiamo fare tutto. Però non lo facciamo dal computer, semplicemente lo faremo dal cellulare, quindi non cambia nulla. Mettiamo il cavo e via. Certo. Però poi non si sente. Anche qua ho una richiesta musicale. Possiamo mettere quante ne vogliamo. Richiesta musicale. Quindi, ricordiamo i nostri canali. Voglio portate gli uomini di Simona Molinari, ragazze. Vai, Tecla, ricordaci. Stavo scherzando. No, adesso vogliamo sapere tutti i canali. Poi tanto c'è la Merco che ti bacchetta. Se... No, allora, l'altra volta l'altra volta ce li avevo scritti, oggi... Vediamo se hai studiato. Allora, vediamo un po'. Telegram. Potete scriverci sulla chat di Telegram, @ Radio Zam, trattino basso, chat. Ovazione. Ok, sei arrivata al 18. Poi abbiamo la pagina Facebook, Radio ZM, sì. Giusto? Giusto. Poi abbiamo la pagina Instagram, sono due pagine, cioè una pagina ufficiale della radio, Radio Zam Mi Sud. Sì, sì. Io dico, ragazzi, di sì, ma non mi ricordo. Sì, sì, lo ricordo io, ma è gioia veramente, cioè. Ma chi l'ha invitata? Poi, mi dire di sì, mi fai credere che siano giusti. No, cioè, non so, perché sei girata dalla parte sbagliata. Sei girata dalla parte sbagliata. Devi guardare me, che sono un esempio fulgido di serietà. Ecco, appunto. Poi abbiamo Instagram, non lo ricordo assolutamente, però guardate, non se lo ricorda. Guarda, ve lo dico in lo tempo. Ricorda. No, ma ve lo dico. Va così. Ve lo dico in tempo zero, perché noi siamo tecnologici. Tecnologici. E le _ ribelli _ Zam, per seguire tutte le nostre stories, tutti i nostri post. Yeah. Che voce è? Una voce diversa. Sì. Bene, se Gioia non ha più nient'altro da dirci, Gioia, noi qua facciamo del io potrei... facciamo, cioè, recitiamo, uno cambia la voce, si trasforma, cioè devi imparare, no? Siete avanti. Io non riesco a fare neanche Paperino. Bisogna intrattenere il pubblico. Gioia cambia posizione delle gambe quando si siede. Sembra che mi stia... No, no, è brutta. Lascio stare. Non ma la tanto dico. Ormai sappiamo tutti più reconditi segreti di Gioia. I segreti di Gioia? Non è vero, non li sapete i miei segreti. I segreti. Che segreti ho? No, beh, no, è vero, li sapete, non diteli. Io. No. Io ce l'ho. Va bene, quindi abbiamo questa... Abbiamo concluso quest'ultima fatica. Non c'è la canzone? Sì, ma c'è... ce l'abbiamo uno store qua che è una meraviglia. Io direi che... cosa è successo oggi, Jessica, in questa puntata? Facciamo un riassunto di questa puntata. Allora, è successo. Oddio, che domanda. Siamo tutte qua riunite. Tutte qua. Tranne Giulia Martina e Maya. E Maya, esatto. Che ci sono però che salutiamo nel web. Tantissimo. E niente. C'è anche Giulio. Anche Giulio, il nostro cuoco di stasera. Ma ragazzi, c'è un cambio di programma. Ecco. Niente pomodorini, ragazzi. Se vuoi dirlo alla radio. Dai, vieni. Sì, è triste dirlo, ma purtroppo stasera niente pomodorini. Niente. No. Mannaggia. Ma che voce radiofonica ha Giulio? Minchia, sì. Potresti entrare nelle ribelli, Giulio. Sexy. Potresti, potresti entrare. Ma rimane condizionale. Attenzione perché è arrivato anche un nostro ribelle. È arrivato anche il nostro ribelle, vieni. Abbiamo il capo. Saluti. Ah, ma siete ancora in diretta? Certo. Per le lunghe. Ma sai che gioia per te fare il podcast? No, aspetta, non ho capito, ripeti. Sai che gioia per me fare il podcast? Avete fatto un sacco di stronzate? No. No, ma c'è la Mercola regia. Ma che bella questa cosa, perché voi limonate mentre fate la trasmissione. Sì, certo. Sì, esatto. E tra l'altro e non solo. E tra l'altro, cioè, dovrei tagliare il pezzo di Gioia che ha fatto tipo un soliloquio di demenza. Ma perché le altre volte cos'è che fa? Aia! Mamma, guarda, puoi tornare da dove sei venuto. Perfetto. No, in realtà io non tocco niente perché il bello della diretta è anche questo, secondo me. No, allora, la mia parte non ci sarà. No, la tua parte ci sarà, sarà all'inizio, alla metà e alla fine, perché noi stacchiamo i pezzi, perché li attacchiamo apposta nei momenti ottimo. Meno opportuni. Va bene, torniamo serie, Torniamo serie per i saluti. Salutiamo per l'estate. E vi promettiamo di tornare a rompervi le ovaie e i genitali maschili, scegliete voi quali. Torneremo a settembre. Oh, mi raccomando, Radio ZM non molla tutta l'estate, proveremo a fare più dirette possibili e immaginabili. Scusate per l'assenza di alcuni programmi questa settimana, però sta avendo un po' il caldo, secondo me. E grazie a tutte e tutti e tutto. Grazie Lore. Grazie anche a Lore, grazie anche a Loru e grazie anche a Lori. Alla radio. L'ho ascoltato Lori e Loru. Peccato di Radio ZM. Sì. E niente, con questo sfaso. Ciao, ciao, buon'estate. Ciao a tutti. Ciao dalle ribelli. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. I'm going to have you trembling. Lift us, die young bad girls, do it well. Lift us, die young bad girls, do it well. Lift us, die young bad girls, do it well. Lift us, die young bad girls, do it well. Chain hits my